La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. Oscar Giannino vi torna a salutarvi oggi, stamattina in diretta, di nuovo alle 16.30, primi e 50 secondi qui dagli studi di Milano di Radio 24. Vi ricordo, per intervenire, 800 24 00 24, 349 238 6666, l'indirizzo, la versione di Oscar, @ radio24.it, per mandare opinioni, proporvi come raccontatori di una storia che ritenete di interesse pubblico in trasmissione, critiche ovviamente, stroncature, complimenti no, non sono richiesti, comunque scrivete, perché sapete, molti di voi sanno che poi rispondo a tutti, e facciamo molte trasmissioni con i vostri suggerimenti. Allora, la puntata di oggi è dedicata a un tema che in questi giorni mi sembra sia tornato delicato. Lo è sempre in Italia per via delle indagini sulla politica, però in particolare in questi giorni sono capitate vicende come quella della condannata a 16 anni di carcere la rumena Doina perché ha ucciso anni fa Vanessa Russo nella metropolitana a Roma per una lite degenerata con un ombrello ficcatogli nell'occhio, e Vanessa Russo è morta. È scoppiato il caso ieri perché era stata messa, dopo i primi anni di carcerazione, ripeto 16 anni, la sua condanna alla semilibertà. La semilibertà l'ha persa in 48 ore perché il giudice di sorveglianza ha detto, al valutare le circostanze in cui secondo il nostro ordinamento si possono modificare i regimi di espiazione della pena, gli ha immediatamente levata perché aveva pubblicato sui social, su Facebook, delle fotografie al mare in cui sorrideva, eccetera eccetera. Molti hanno creduto che fosse per questo, ma invece il motivo era che nel decreto, cioè nell'ordinanza con cui si disponeva l'ammissione alla semilibertà, era impedito alla condannata l'utilizzo di cellulare eccetera per contattare terzi, quindi anche i social erano inibiti. Lei non l'avesse capito o meno non si sa, ma questo ha motivato l'esclusione dai benefici immediati in 48 ore. Tuttavia questa cosa, in tutte le trasmissioni, anche quando non abbiamo toccato il tema stamattina, suscita da parte di la maggioranza assoluta di voi tutti cori di indignazione, perché la richiesta largamente predominante è: in galera, nessuno deve uscire, pene più dure e così via. E allora la puntata di oggi è dedicata a una riflessione sul fatto che il giustizialismo dove ci porta. Non ho nessuna intenzione di farvi cambiare idea, vi chiedo solo rispetto, per favore, non si tratta di insultare qui, si tratta di ragionare. Io ricordo a tutti che le polemiche erano esplose la settimana scorsa, due settimane fa, tre settimane fa, per una nuova valanga di intercettazioni di persone nemmeno indagate sulla vicenda dei petroli, che hanno dominato sui giornali, come sempre capita da 25 anni, a paginate intere, come sempre non c'è il problema neanche sfiorato di chi è responsabile del nostro ordinamento, del fatto che quelle intercettazioni dovrebbero rimanere riservate. Enormi polemiche, una frase del Presidente del Consiglio, la risposta del nuovo Presidente dell'ANM Davigo molto critica, se la giustizia ci mette troppo tempo è per colpa del fatto che non ci sono magistrati, i magistrati non sbagliano mai. Stamattina il vicepresidente del CSM Legnini, ricordo a tutti che il CSM è presieduto dal Capo dello Stato, ma il vicepresidente Legnini, che quindi ha compito operativo per così dire, ha dichiarato in un convegno che la pubblicazione così frequente, in effetti, di colloqui tra persone neanche indagate corre il rischio, testuali parole, di ledere il prestigio dei pubblici ministeri. Qui il problema, con tutto rispetto per il vicepresidente del CSM, non è il prestigio, ma il problema è se le norme vanno cambiate. Non solo queste, ma anche in generale c'è un provvedimento che il governo ha promesso e che giace in Parlamento, attualmente in Senato dopo una prima lettura alla Camera, per il giusto processo e per modifiche al codice penale. Ecco, quella misura ordinamentale giace lì da mesi e mesi, mentre invece poi il Parlamento sforna sempre nuove aggravanti di pene. Io ci metto anche l'omicidio stradale, so che voi siete tutti a favore, io sono contrario alle fattispecie che invece proliferano per inseguire le emotività, però siccome so che la maggioranza di voi sicuramente è per pene esemplari, forse pena di morte compresa, adesso la maggioranza per la pena di morte non credo, però tutti quanti avete la reazione, tutti in galera, intercettazioni, solo qualcosa, chi ha da nascondere qualcosa, ha qualcosa da preoccuparsi, ragioniamo su questo. Prima di presentare i due ospiti che abbiamo per ragionare su questo tema, e cioè se non sono bastati 25 anni di giustizialismo oppure se bisogna ancora accentuarne la dose. Una notizia però, una notizia che è stata battuta dalle agenzie pochi minuti fa e che a me riempie di letizia, spero anche a voi, e che avrà conseguenze, vedremo quali, le giudicheremo nei prossimi giorni, perché il Consiglio di Stato, dovete sapere, argomento canone in bolletta, il Consiglio di Stato ha letteralmente stroncato il decreto ministeriale che disciplina le norme esecutive del canone in bolletta, e l'ha stroncato con un parere che ha sospeso. Quindi siccome la promulgazione del decreto ministeriale che tutti davano per fatta senza il parere del Consiglio di Stato non può avvenire, quella norma, se non riscrivono il decreto a questo punto, non è vigente, e la stroncatura del decreto, io vi invito a leggerlo, c'è già sul sito di Repubblica, se non credete a me perché io sono stato contrario da sempre al modo in cui hanno attuato questa misura, raccoglie esattamente tutte le obiezioni frontali che i pazzi come me hanno fatto sin dall'inizio. Il Consiglio di Stato dice che non è chiaro chi deve pagare, perché la definizione di famiglia anagrafica è troppo vaga e non è precisa, non è chiaro a quali apparecchi si applica e a quali no, e quindi è fonte di inevitabili confusioni e aumenti di introiti, perché la gente per sì e per no pagherà di più. Non è chiaro la modalità con cui si fa per via elettronica o per iscritto, stante il modulo già presentato all'Agenzia delle Entrate da 2 settimane, la dichiarazione dove si rischia il penale, manca il concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze. In parole povere, il Consiglio di Stato stronca l'atto ministeriale con cui il Palazzo Chigi aveva considerato risolto il problema, e a questo punto l'opinione di chi di legge ne sa è che o lo riscrivono integralmente oppure col piffero, visto che siamo a fine aprile, che a luglio riescono a farcelo pagare in bolletta. Ecco, questo per dire che la legge ha la sua importanza. Viva viva il Consiglio di Stato per quello che mi riguarda. La notizia è fresca, vedremo come reagirà il governo, vedremo come reagirà la RAI, però insomma uno schiaffo in faccia, devo dire, che arriva proprio sul muso al governo su questo. Era una misura che trasforma quella che all'inizio il canone RAI era un, appunto, un canone per un corrispettivo di un servizio, trasformato poi a seguito anche del referendum in una tassa patrimoniale sul possesso di apparecchi riceventi, e lo annegava in una tariffa, quella lettera. Quindi un capolavoro dal punto di vista giuridico, però vedremo che cosa avverrà di questo. Parliamo invece del bilancio, delle misure del governo che giacciono in Parlamento per i diritti dei cittadini nel processo penale, e del giustizialismo sì o no, comprese le intercettazioni. Un'ultima cifra da tenere sempre presente, per chi volesse approfondire trovate sul sito www.truenumbers.it i dati anche raffigurati con istogrammi. Allora, a fine del 2015 nelle carceri italiane c'erano 52.164 detenuti. Di questi il 34%, cioè più di uno su tre, è in attesa di una condanna definitiva. Ecco, sono 8.500, cioè il 16%, in attesa addirittura del primo grado di giudizio. A questo si aggiungono 9.262 persone che attendono invece la condanna definitiva passata in giudicato. Quindi sommate abbiamo il 34% dei detenuti che non sono condannati in via definitiva. Questo per dire, abbiamo migliorato la situazione rispetto al 2008 per i provvedimenti assunti dai governi in questi anni, perché nel 2008 addirittura la percentuale era del 51% degli allora quasi 60.000 detenuti ancora in attesa di giudizio, cioè prima di una condanna passata in giudicato. Però restiamo in questa situazione, ricordiamocelo sempre quando diciamo galera, la fotografia delle carceri italiane resta questa, in via di miglioramento ma molto graduale, lontano da quello che dovrebbe essere la condizione di un paese civile. Allora, chi sono i due ospiti di oggi? Abbiamo innanzitutto, visto che i magistrati dominano sempre sui giornali, il presidente delle Camere Penali, quindi l'avvocato Beniamino Migliucci. Grazie di essere con noi, presidente. Buonasera, grazie a voi. E un giornalista ben noto a tutti noi, ma anche a voi, che ha intrapreso una nuova avventura editoriale proprio tutta tarata sulle questioni della giustizia, perché è direttore di un quotidiano che si chiama Il Dubbio, ed è con noi Piero Sansonetti, che io ringrazio. Grazie Piero e tanti auguri per il Dubbio. Grazie a te. Buonasera. Posso chiedere innanzitutto a Piero Sansonetti, prima di entrare nel dettaglio dei provvedimenti e delle misure, che cosa pensi in generale del giustizialismo che resta con noi e sembra sempre più forte? È sempre più forte, non c'è dubbio, aumenta proprio nell'opinione pubblica, i giornali sono scatenati, ma è proprio di queste ore come si sono comportati i giornali sul caso di quella ragazza rumena che si chiama Doina, che è stata condannata a 16 anni di carcere per omicidio preterintenzionale, una pena altissima perché il massimo sono 18 anni, quindi lei aveva 18 anni d'età peraltro quando ha commesso il reato. È uscita dopo 9 anni, non è uscita, è andata in semilibertà, esatto, per la legge Gozzini, che è una legge del 86 che permette, dopo aver scontato più di metà della pena, di avere la semilibertà, che vuol dire che resti a dormire in carcere, esci per lavorare. E niente, i giornali hanno dettato ai magistrati il suo arresto, è stata riarrestata, è stata riportata in carcere, chiaramente su ordine dei giornali. Quel magistrato che ha deciso di reincarcerarla forse è indipendente dalla politica, ma non è indipendente dai media. Si pone il problema dell'indipendenza. Io non so se l'indipendenza della magistratura sia giusta o sbagliata, ma se c'è, deve esserci. Non ci può essere una magistratura che è indipendente dal potere politico, ma non è indipendente dal potere dei media. E questo è un caso clamoroso. Perché vince il giustizialismo? Perché una volta. Devo dirti, Piero, ma tu lo sai, perché fai questo mestiere meno da quanto me, se non di più. Anche la pressione per noi che ogni giorno andiamo in onda, eccetera, eccetera, i messaggi che arrivano, gli sms, le telefonate, gli insulti, per chi prova a ragionare su questo, testimoniano che c'è un'opinione pubblica arroventatissima e a stragrande maggioranza che invoca forche, galera per tutti, ergastoli, non deve uscire, spiegatelo alla madre, capitasse a te, eccetera, eccetera. Non c'è dubbio, ma guarda, ci sono due questioni. Una è molto semplice. Negli anni Ottanta, quando fu fatta questa legge, che fu firmata da un parlamentare che si chiamava Gozzini, era un parlamentare cattolico, un grande intellettuale, ed era considerato un grande intellettuale anche dall'opinione pubblica. Oggi, se Gozzini fosse ancora vivo, ma non potrebbe comparire, lo lincerebbero per strada. Oggi l'intellettuale è considerato Salvini, non è considerato Gozzini. È successo questo in questi 25 anni. Poi c'è qualcuno che ha ragione. Adesso io vorrei citare una persona che è molto lontana da me, un magistrato. Gerardo Colombo ha scritto un libro nel quale cerca di spiegare inutilmente, perché non lo capisce nessuno, che la pena non è retributiva. Cioè la pena serve a punire un delitto, non a risarcire la vittima. Poi il risarcimento della vittima è un'altra cosa, si può vedere in altri campi. E invece, proprio nella totalità dell'opinione pubblica, la pena è vista come risarcimento della vittima, come è un po' nei codici islamici, poi, no? Nella Sharia, e la pena deve essere, nei codici islamici succede che uno viene impiccato a meno che i parenti della vittima non lo perdonino, no? Cioè, il potere dell'esecuzione della pena sta ai parenti della vittima. Ma insomma, giustizia, occhio per occhio, dente per dente. Sì, è solo che manca un po' più, due occhi per un occhio, e non c'è niente da fare, e la reazione può venire solo da due categorie, dai magistrati e dai giornalisti. Se i magistrati e i giornalisti non si decidono a rientrare nella cultura occidentale, non si decidono a preferire Beccaria a Torquemada, non c'è niente da fare, non ne usciremo mai. Da lì può partire la reazione, solo da lì, da queste due categorie, che sono le due categorie che sono state protagoniste della deriva giustizialista della quale parlavi te in questi 25 anni. Però, Piero, i direttori di giornali che non pubblicano intercettazioni neanche di indagati non ce ne sono, perché dicono altrimenti prendo un buco. E DPM che dicano sono alla testa di un ufficio groviera da cui escono atti neanche depositati che non avranno valenza processuale, eccetera, eccetera, non ce n'è nemmeno uno nella storia italiana. Non solo, ma quando la pubblicazione delle intercettazioni è reato, perché spesso è già reato, al di là di una legge che va modificata, ma già con le leggi attuali spesso alcune intercettazioni non si possono pubblicare, non dovrebbero uscire, penso a quelle della Cancellieri, per dire, per citare un caso recente, nessun magistrato, no, non parte nessuna indagine, cioè non viene nemmeno considerato notizia di reato, è una notizia di reato evidente, è pubblica, e ci sono anche generalmente degli indiziati quantomeno evidenti, no? Non si procede mai. Pensa appunto al caso della come si chiamava, della Cancellieri, sì, della Cancellieri, sì, che aveva quelle intercettazioni, non erano state depositate. Sì, sì, esattamente. Non erano state depositate, quindi possono essere state date ai giornali solo da chi stava indagando in quel momento. Mm-mm. A te risulta che è stato fatto un avviso di garanzia? No, è per questa maggior ragione a me le parole del vicepresidente del CSM, che non ha bisogno certo di lezioni di dottrina da parte mia di oggi, che parla di queste frequenze, le frequenti pubblicazioni come merita qualcosa. Un grande applauso. Ecco, appunto, perché almeno solleva, nella misura in cui, come si diceva un tempo, può farlo senza creare ulteriori risposte da parte dell'ANM, però torna a dire, ragazzi, non possiamo andare avanti così. Allora, abbiamo un minuto di informazione stradale, sentiamo poi l'opinione del Presidente delle Camere Penali subito al ritorno di Beniamino Migliucci. La versione di Oscar. Allora, tornati in diretta, vi dicevo che come non avevo dubbi i messaggi sono di questo tenore. Un ascoltatore giapponese si dichiara fiero del fatto che nel suo paese ci sia la pena di morte, mentre qui in Italia nulla è certo, e quindi ci invita ad assumere la pena di morte nel nostro ordinamento. Leggo a caso, la giustizia in Italia fa solo cagare, troppo leggeri con le merde i delinquenti, per zingari rumeni solo camere a gas, dice un altro, anzi no, forni crematori, scusate, e fine, senza applicare il codice penale che vale per gli italiani. Benissimo. Dopodiché c'è un messaggio, due messaggi in tutto per carceri e rieducazione, e un messaggio dai toni equilibrati che dice: quello che i delinquenti o aspiranti tali chiamano giustizialismo, quindi io sarei un delinquente secondo l'ascoltatore, le persone oneste e non violente continuano e continueranno sempre a chiamarlo giustizia. Capisco che per voi in questa italietta è come svuotare il mare con un cucchiaino, ma lei pensa che noi siamo coi delinquenti perché ci rifacciamo a una tradizione, no, del diritto penale di Cesare Beccaria. Allora, che cosa avete da nascondere se siete contro le intercettazioni? Una filza. Altri che dicono: Sansonetti è diventato contro l'indipendenza del magistrato. Stiamo parlando dell'indipendenza dei magistrati o della pubblicazione di intercettazioni che non dovrebbero uscire? Perdonate, cosa c'entra l'indipendenza del magistrato? Mica deve giudicarlo un politico che cosa deve uscire o meno, no? Ci deve essere una norma chiara nell'ordinamento. Però lo sapevo, ecco, che questa sarebbe stata la reazione. È ben di questo che parliamo, io non vi giudico, dico semplicemente che questa è l'atmosfera. Che ne pensa il Presidente delle Camere Penali Beniamino Migliucci? Ma penso che ci stiamo allontanando sempre di più da alcuni principi costituzionali che sono fondamento anche della nostra cultura e della politica giudiziaria. La pena anche intesa come rieducazione, di cui parlava lei, la presunzione di innocenza. Ora, non passa il messaggio, perché nessuno lo dice, che le persone che vengono affidate alle misure alternative nella gran parte dei casi si allontanano dal crimine. E chi invece rimane in carcere senza, esatto, speranza, esatto, e poi produce soltanto recidiva con un costo per la società. Però è un messaggio che forse diventa difficile da mandare, impopolare, i media non lo mandano, la politica anche, che una volta formava, contribuiva a formare l'opinione pubblica, ha rinunciato perché è più facile farsi guidare dall'opinione pubblica. La presunzione di innocenza è demodé, e quindi alle persone, salvo che non capiti a qualche familiare o a loro stessi, ritengono che sia giusto stare in carcere prima ancora del processo di primo grado. Ora si è parlato di quella ragazza, c'è stata la precisazione che vi sarebbero delle violazioni, naturalmente giudicherà il tribunale, certo. Però quelle, se le violazioni sono quelle, quelle prescrizioni vengono impartite generalmente per non avere dei contatti con pregiudicati, esatto, o con persone, esatto, pericolose, non per evidentemente farsi una foto sorridente, il che credo, se le cose stanno così, non scalfisce un percorso che deve essere stato attivato, perché la semilibertà si ottiene solo se tu anche in carcere hai partecipato in modo significativo e proficuo all'attività lavorativa, all'attività, no, certo, di educazione, non te lo poi dà. Vai a lavorare, e poi anche se hai ottenuto un premio, come pare avesse ottenuto quella ragazza, lo puoi avere solo se sei particolarmente meritevole di averlo. Quindi io credo che il tribunale poi valuterà questo, però è evidente che la pressione mediatica incide. Allora io credo che bisognerebbe che tutti quanti si facesse una riflessione, che ci si rendesse conto che non è bene che le intercettazioni vengano pubblicate, però io la colpa non la do tanto e solo ai giornalisti, perché il tema è chi dà, chi consegna quelle intercettazioni ai giornalisti. Si è sempre detto voi avvocati, questa è la tesi dei PM. No, ma c'è un problema, perché possono esistere avvocati cialtroni, avvocati ignoranti, però avvocati con la sfera di cristallo non ce ne sono. Quindi quando le intercettazioni vengono divulgate prima ancora dell'ordinanza impositiva migliore cautelare, non c'è dubbio che vengono dal circuito investigativo inquirente. Quindi io posso affermare tranquillamente che il 70%, l'80% esce da quel circuito, basta vedere. Non credo che poi gli avvocati che possono essere accusati di tutto siano anche talmente idioti, scusi il termine, alla radio, che divulghino magari delle intercettazioni o delle captazioni o dei filmati che pregiudicano il proprio assistito, e soprattutto prima di venirne a conoscenza. La realtà è che spesso queste captazioni, intercettazioni o filmati vengono divulgati anche quando delle indagini sono magari un pochettino deboli, sempre per ottenere anche il consenso dell'opinione pubblica attorno all'indagine. Poi magari se dopo 10 anni si viene assolti, o quel giudice aveva sbagliato, o l'avvocato chissà che cosa ha fatto. Ecco, io credo che forse sarebbe bene avviare, ma bisogna vedere anche quanto la politica e anche ai media interessi, un percorso culturale in modo sereno, tranquillo, certo, coinvolga l'opinione pubblica. Ma io sono molto d'accordo con lei, però, tant'è vero che non faccio alcun affidamento che avremo alcuna norma, anche questa che sta in Parlamento, sul giusto processo né sulle intercettazioni, perché la politica viene travolta perché dice stai tutelando i tuoi interessi, quindi non però così non c'è uscita, cari ascoltatori. Voi siete convinti che invece sia la suprema giustizia che parla nelle vostre risentimenti, nella vostra indignazione, non il risentimento sembra che un giudizio, però guardate bene che l'inciviltà giuridica di un paese è un altro passo verso l'approfondimento della sua crisi. Io, se pensate che adesso sono pagato da delinquente o delinquente, io non so cosa dirvi. Comunque non cambierò idea, perché non mi pare che Cesare Beccaria parlasse per i delinquenti. Io non sono Cesare Beccaria, Piero Sansonetti viene da sinistra, io vengo da un'altra sfera politica, non c'entra niente, sono norme di civiltà che dovremmo ricordare. Non significa volerla farla franca. Io voglio la certezza della pena. Non credo che i processi che durano anni si debbano al fatto che sono pochi magistrati, come dicono i magistrati. Questo, l'esperienza di 30 anni mi ha dimostrato che non è così, tanto per dirne una. Però, ripeto, non c'è mai un PM che risponde di intercettazioni uscite dal suo ufficio, come quelle dell'ex ministro Guidi, che si doveva dimettere dopo che è uscita, è ovvio, visto che era in conflitto di interesse patente. Però quelle non si sono depositate, quindi quelle sono uscite solo di là, cari ascoltatori. Allora, c'era un'infinità di telefonate, e questo avevamo bisogno di un'ora almeno per fare la trasmissione. Purtroppo il tempo è finito, e quindi io mi scuso con chi non mandiamo in onda. Grazie ai nostri due ospiti, vediamo cosa succede per la RAI. Appuntamento all'8:15 ogni mattina con me, Alessandro Mina, da Attenti a noi due.